Parla Ipazia. Un qualsiasi evento può accadere in un certo punto dello spazio e in un certo punto del tempo. La posizione nello spazio può essere misurata da tre numeri o coordinate e la posizione nel tempo è determinata da un altro numero o istante. Quindi ogni uomo o oggetto che si muove o resta fermo nello spazio si muove anche nel tempo. Quindi le informazioni necessarie per l'individuazione della posizione di un corpo sono tre spaziali e una temporale, ovvero ogni corpo fermo o in movimento viaggia in un mondo a quattro dimensioni o spazio-tempo. Immagino due soggetti che si muovano nello spazio a velocità uniforme, ovvero con moto in assenza di forze. In mancanza di altri oggetti ai quali fare riferimento, ognuno dei due pensa di essere fermo e percepisce il movimento dell'altro. Si può allora affermare che è osservabile soltanto il moto relativo. Inoltre, se i due soggetti realizzassero ognuno per proprio conto le stesse misurazioni, avrebbero gli stessi risultati, come se ambedue fossero inquiete. Ricordo una notte con la luna oscura. Ero lontana dalla città, dalla traccia luminosa del faro. Nel buio i miei sandali affondavano nella sabbia del deserto. Guardavo le stelle che brillavano silenziosamente nel cielo nero e profondo. Mi chiedevo quanto esse fossero lontane dai miei occhi, curiosi, sicuramente un numero immenso di stadi. E la luce che da esse viaggiava, per tempi interminabili, quanto era veloce. Astronoma, io conoscevo tutte le costellazioni. Le spruzzate di polvere argentea, ammassi di stelle lontanissime, i movimenti durante la notte e le stagioni dei vari quadranti del cielo, ma non era questo che domandavo a me stessa o a chi. Chiedevo alla mia ragione e in definitiva alla sofferenza profonda di un cervello che dubita. Da una tradizione antichissima io, Ipazia di Alessandria, sapevo che nel corpo dell'essere umano esiste un cristallo che vaga attraverso il sangue e che raggiunge ogni parte del corpo umano. Questo minuscolo cristallo è la realizzazione materiale e concreta del sé. È lo specchio e l'oblò attraverso il quale l'essere umano può raggiungere l'altra dimensione. È il ricordo e nello stesso tempo è il presente e nello stesso tempo è il futuro di una situazione di crescita incessante, continua, misteriosa, è la perfetta realizzazione di ogni desiderio di immortalità, di ogni desiderio di conoscenza e di ogni desiderio di infinito. La luce attraversa lo spazio vuoto ad una velocità che è la stessa, sia che la sorgente o lume si muova verso di noi, o che si allontani in qualsiasi direzione, ovvero che noi si vada ad incontrare la luce. O si fuga dinanzi ad essa. Per quanto noi possiamo inseguire un raggio di luce, questi si allontanerà da noi alla medesima grandissima velocità. Infatti, esso non può mai rallentare o fermarsi, e anche se noi potessimo raggiungere la sua stessa velocità, non potremmo vedere un raggio di luce fermo. Si immagini un carro che percorra una strada con moto costante e con un lume collocato su di esso in modo tale che sia alla identica distanza dalle sponde anteriori e posteriori dello stesso. La luce per il conducente del carro e si propagherà in tutte le direzioni con la medesima velocità, raggiungendo il lato anteriore e posteriore del veicolo nello stesso istante. Un osservatore fermo sul ciglio della strada vedrà invece la luce raggiungere la sponda dietro del carro prima di quella avanti, in quanto la prima va incontro al raggio luminoso, mentre la seconda si allontana. Poiché la velocità del raggio di luce è la stessa nelle due direzioni, anche per colui che è immobile sulla strada, in quanto essa non può sommarsi o sottrarsi a seconda del senso del moto alla velocità del carro. La luce non può essere accelerata o frenata, corre sempre alla stessa velocità. Si può quindi dedurre che un evento che è simultaneo per il conducente del carro in movimento non lo è per un qualsiasi individuo in stato di quiete. Quindi uno stesso evento non accade nello stesso istante per due soggetti che si muovano l'uno rispetto all'altro. Non esiste un tempo assoluto che scorra allo stesso modo in ogni luogo dell'universo. Si è detto che ogni corpo si muove in uno spazio a quattro dimensioni, o spazio-tempo, con tre dimensioni spaziali e una temporale. Noi possiamo affermare che ogni corpo si muove nello spazio a quattro dimensioni alla velocità della luce. Un corpo fermo nello spazio usa tutta la sua velocità nel viaggiare nel tempo, mentre un corpo in movimento usa parte della sua velocità per viaggiare nello spazio, quindi la sua velocità nel tempo diminuisce. Un raggio di luce non ha velocità nel tempo, non ha età. Il lampo di luce del primo sorgere di questo universo non è invecchiato di un solo attimo. Lei mi chiamava. Lei chiamava me, attirandomi verso di sé. Vieni da me. È l'ultimo giorno e deve essere lunghissimo, come tutte le tue vite trascorse, i tuoi ricordi, i tuoi amori, le tue felicità e infelicità, tutto quello che è avvenuto. Sono dietro di te. Il dolore per un impossibile ritorno non è degno di quello che sei. Io che ho sempre vissuto, eterna, quanto il mondo, madre e figlia di tutte le creature, ti sto aspettando, ho desiderio di te che peregrini per lunghe e solitarie strade. Io sono colei che sempre è. La mia bocca, il mio ventre, le mie braccia attendono da innumerevoli ere il mio compagno, la mia compagna. Donna e dea, anch'io ho sperimentato sul mio corpo le lunghe attese. Anch'io sono sola, benché i miei amanti e le mie amanti siano state numerose come le stelle in cielo. E io, Ipazia di Alessandria, fui sognata dal mio sogno, ferma nello spazio e viaggiatrice del tempo.